Brusio dall'officina scuola, dove i mutilatini traggono utili insegnamenti. Seghe, piallatrici, torni in movimento, obbedienti a mani stroncate, ad occhi offesi, a gambe artificiali. Dalle ampie finestre, nelle pause, il cinguettio degli uccelli che popolano il parco. Felici come le più liete creature del mondo, anche questi fanciulli, affidati a educatori ricchi di sapienza e d'amore che li seguono con sollecitudine paterna, con ansia materna. Felici come tutti gli altri ragazzi. Uditeli nel vasto cortile dell'Istituto Friulano per Orfani di Cividale, spettatori e attori di una partita di calcio fra squadre rappresentative. Come in uno stadio, le stesse norme sportive, la stessa passione, lo stesso tifo per i colori preferiti. Dopo la scuola, la parentesi dell'estate, al mare e ai monti, nelle colonie adriatiche e sotto i colossi alpini, dove incontrerete ancor più felici gli orfani del Friuli. Una madre li ha visti passare, indrappellati nelle vie cittadine, e così li saluta in un sonetto di Enrico Fruc. Warpings di Were. Oi sintude di fur, come la svedune fanfare, e o soi corude prest. Monture grise e baretin celeste. Vignivin su i soldats par bordolè. E o sin, soldats, ma nanche par idee. Son masse fruz. No uldinie par quest. Chialaice ben che van. Chialaice ses, c'è discipline. Io ne maravè. E sono intros. Son tanti, son più di cento. Son i warpings di Were che van via. Durafo, in Ciarnie, in tuo accampamento. Col zaino e col pistop, soldats perfetti. Mi fasi in sens e mi metti in ligrie. Ur faseur il salut che i benedetti. Mille voci si accingono ora a ripetere il canto che tanti cuori ha scossi e inebriati. I mille orfani dell'Istituto di Cividale, con la loro fanfara, ricordano così i padri caduti nel compimento del dovere. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Messaggio degli orfani ai lontani. 19ª trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Adattamento musicale di Ezio Vittorio. Hanno partecipato alla trasmissione l'orchestra udinese, la fanfara del Tomadini diretta da Angelo Prenna, gli orfani dell'Istituto di Cividale, i mutilatini di Butrio.